È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui, 18.37, i numeri per chiamarci in diretta come al solito, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo subito con i riassunti della giornata, TG2. Tra poco la sentenza del TAR del Lazio sulla riammissione della lista PDL a Roma e provincia. Maroni, i giudici decidano presto per evitare il rinvio delle elezioni. Napolitano durante la celebrazione per la festa della donna. Gli italiani, al di là delle divisioni politiche, credono nella Costituzione. In una democrazia rispettabile non servono atti di coraggio. Condannati a 8 anni i 2 minorenni di origine rom che il 10 agosto scorso uccisero a botte Antonio De Meo, un studente universitario di Martinsicuro. Nella sfida con l'ex marito James Cameron, la Bigelow con The Hurt Locker vince 6 statuette contro 3. È la prima donna premiata per la regia, 2 Oscar anche per l'Italia. Studio aperto. Il delitto di Perugia, ecco il video che scagionerebbe Amanda e Raffaele. Nella registrazione Mario Alessi riferisce agli inquirenti le confidenze dell'ivoriano Rudy Gedè. Il killer del piccolo Tommy assicura a quei 2 ragazzi, sono innocenti. Primo giorno di lavoro fuori dal carcere per Renato Vallanzasca, da oggi l'ex capo della mala milanese con 4 ergastoli da scontare in semilibertà, cuce, zaini e portafogli in questa pelletteria. Meno 16 a Cortina, temperature polari su tutte le Dolomiti, l'inverno non cede, da domani previste 36 ore. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le briglie del paese. E Dio briglie, perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta. Ordine, obbedienza, disciplina. Basta o l'antistorica uguaglianza. Ma che vuol dire? Soltanto i coglioni sono uguali l'uno all'altro. Bravo! E all'improvviso sembra di essere piombati nel Cile, nell'Argentina degli anni 70. Ci sono 2 parole che vengono pronunciate da alcuni esponenti dell'Italia dei Valori soprattutto, ma non solo, anche del mondo intellettuale, li sentiremo più avanti. Le 2 parole sono golpe e sovversione. Di Pietro. Quel decreto è incostituzionale, è sbagliato, è immorale, è un golpe. Il comportamento del capo dello Stato nell'avallare questo decreto golpista è stato inutile e dannoso. Inutile perché questo decreto non serviva e non serve per risolvere la questione che è già stata risolta dai giudici a prescindere dal decreto. Tanto è vero che la lista Polverini e la lista Formigoni. E poi naturalmente De Magistris, ancora più pesante, ma immaginate voi una manifestazione, ancora la devono decidere bene, sabato prossimo, in cui da una parte ci sono gli elettori di Giorgio Napolitano, cioè dire il Partito Democratico, che è il grande elettore, il partito da cui proviene Giorgio Napolitano, e questi personaggi dell'Italia dei Valori, De Magistris. Veramente stiamo, ripeto, alla sovversione dell'ordine democratico e della Costituzione legalizzato da un intervento del Presidente della Repubblica. Questo mi sembra veramente la chiusura del cerchio ormai di uno scenario istituzionale profondamente degradato, ed evidentemente la deriva morale, la deriva etica ha ormai colpito tutte le istituzioni del nostro paese. Ci troviamo di fronte a un golpe istituzionale. Questo è l'aspetto tipico dei peggiori regimi, che non hanno bisogno della violenza fisica perché ormai un sistema corrotto, in parte mafioso, si trova all'interno delle istituzioni. Ma c'è anche il mondo intellettuale, chiamiamolo così, una piccola parte del mondo intellettuale, capitanata come al solito da quelli di Micromega. E allora uno dei nostri personaggi preferiti che riapre la rubrica Radio Londra. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Antonio Tabucchi, che dal suo buon ritiro, dalla sua casa, non so dove, a Parigi, forse a Lisbona, sa tutto dell'Italia e ci informa del fatto che nottetempo napoletano, quasi di nascosto, come fanno appunto i golpisti militari in Cile, in Argentina, ai tempi degli anni 70, ha firmato il decreto anticostituzionale. È un'altra legge vergogna. Un'altra delle leggi obbrobriose che Berlusconi si è fatto fare da quando col becco strappa pezzi di carne al corpo martoriato ormai della Costituzione. E Napolitano la firma, stavolta nottetempo, un servo. Mi viene in mente la ronda di notte. Sembra una catena di montaggio, o meglio di smontaggio della Costituzione. Berlusconi e i suoi azzeccagarbugli che fa diventare onorevoli, no? Quelli poi li fanno le leggi, le piazzano sul tavolo del Presidente, all'occorrenza gli bussano all'uscio di casa e lo fanno alzare dal letto e lo fanno firmare senza neanche accendere i lampadari con la torcia elettrica. Questo era Tabucchi, che poi ci va giù ancora duro con un paragone sulle leggi razziali. Qualche commentatore, qualche grillo parlante, è già stato detto che Napolitano non poteva non firmare. Poteva e come? Bastava non volesse, a meno che non avesse una pistola alla tempia. Vede, le leggi razziali nel 38 non le firmò Mussolini, le fece firmare Vittorio Emanuele III e lui le firmò. Simeone di Bulgaria, ad esempio, non le firmò, ma è questo fa la differenza, perché alla storia, alle nostre leggi razziali, le ha affidate la mano di Vittorio Emanuele III. Dunque il decreto sulle elezioni, sulla riammissione delle liste, che poi è servito solo in Lazio, sembra, bisogna vedere poi cosa deciderà oggi il TAR, come le leggi razziali. Ma sempre a chiudere Radio Londra non ci può... Non ci può essere che Di Pietro, il quale oggi se ne esce con P2, Benito Berlusconi, insomma sembra tornato Di Pietro di qualche settimana fa. Oggi dobbiamo fermare il piduista Benito Berlusconi e sotto questo aspetto noi dell'Italia dei Valori intendiamo costruire la più santa alleanza prima che sia troppo tardi. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le briglie del paese. E Dio briglie, perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta! Vabbè, insomma, accertato che secondo alcuni siamo in un clima di questo tipo, in un clima golpista, altro che pre-golpe. Siamo arrivati con il decreto firmato da Napolitano nottetempo, e viene specificato, viene sottolineato nottetempo, in una sorta di Italia anni 70, dove la sovversione è lì, già presente. Detto questo, dall'altra parte non c'è nemmeno... Milioni è sparito e non parla. Però i dirigenti non chiedono scusa per un pasticcio che ha costretto addirittura quasi l'ONU a intervenire. Insomma, il Presidente della Repubblica, che ha dovuto fare una trattativa con Berlusconi, anche con discussioni piuttosto accese. Nessuno chiede scusa, dicevamo. Men che mai, per esempio, la Russa, quello che ha minacciato Sfracelli nel caso in cui non fossero state ammesse le liste del PDL, la Russa che dice volevano votare quelli della sinistra come in Unione Sovietica. Evidentemente parlavano con lingua biforcuta e speravano di poter correre da soli per vincere facile, come avveniva nelle repubbliche sovietiche. A parte che il problema era la lista del PDL in provincia di Roma, non era l'esistenza delle elezioni o comunque la cancellazione di tutte le liste del PDL. E poi sentite Formigoni, magari avrà pure ragione per quello che riguarda la Lombardia, però scuse Nisba. Se avessimo fatto degli errori, se fossimo stati riammessi per grazia ricevuta, era giusto dire ai cittadini, I'm sorry, abbiamo sbagliato, è giusto partecipare alle elezioni, però abbiamo sbagliato, chiediamo scusa. Però il TAR ha sentenziato che non c'è stato errore, quindi non dobbiamo chiedere scusa. Va bene, 18:50, ascoltatori, Fabio, Torino. Pronto, Cruciani? Dica, Fabio, buonasera. Buonasera. Come sta? Dunque, io parto dal presupposto che in democrazia democrazia debbano essere presenti tutte le forze politiche per dare la possibilità all'elettore di poter esprimere la propria opinione. Il problema è che in questo caso il pasticcio e soprattutto il non rispetto della regola ha causato tutto. A questo punto, da un punto di vista dell'elettore, la cosa che mi chiedo, proprio come provocazione ovviamente, ma allora se io la domenica decido di non andare a votare perché voglio andare a sciare e ci vado a votare mercoledì, che faccio? Faccio poi un decreto interpretativo e poi alla fine magari il mio voto viene contato? Come funziona secondo lei? Guardi Fabio, la settimana scorsa ne abbiamo parlato a lungo e anch'io sono dell'idea che siccome i cittadini hanno sempre delle scadenze piuttosto fisse, non possono superarle nemmeno di un secondo, non bisogna derogare nemmeno alle regole che il potere politico deve seguire, per esempio nel presentare le liste elettorali, anche perché sono regole che lo stesso potere politico decide. Però Piero Stellino ci faceva osservare una cosa, che il diritto del singolo è una cosa, cioè un bene superiore, diciamo, che è quello che venga rappresentato una parte della popolazione, eccetera, e forse appunto è un bene superiore rispetto al diritto del singolo. Non la convince questo ragionamento? No, mi convince. La mia era più che altro una provocazione, perché mi sembra che... Io non sono troppo convinto in realtà di questo, devo dire la verità. Comunque, diciamo, ci può stare, però comunque secondo me dal punto di vista proprio come elettore mi piacerebbe che le regole veramente siano veramente seguite e siano valide per tutti, sia per il cittadino normale che per... E Napolitano ha fatto bene secondo lei, perché la vera discussione del giorno è questa dopo gli attacchi che ci sono stati a Napolitano nei giorni scorsi, ha fatto bene o male Fabio? Guardi, secondo me, il mio personalissimo punto di vista, Napolitano ha fatto bene secondo me, perché il dire di no avrebbe creato ancora più confusione. Vabbè, insomma, realpolitik secondo lei. Da Magistris si dice che Napolitano è sostanzialmente un complice, un garante solo di Berlusconi. Marco da Palermo, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Allora, io la chiamo, insomma, per riprendere un attimo il discorso che ha fatto, sono d'accordo con il signore di Torino, riguardo al fatto che effettivamente se vale per uno la regola deve valere per tutti. Però la cosa che mi amareggia molto dei politici, dei nostri politici, è che sono un po' come uno stormo di fenicotteri, li hai mai visti? Praticamente quando qualcuno dice qualche cosa tutti si girano da quel lato, come se fossero tutti sincronizzati, nessuno che la pensa in maniera un po' diversa, nessuno che nella mischia si alza e dice, come un po' ha fatto Fini. Lei dice all'interno degli schieramenti, dice lei. All'interno degli schieramenti. No, guardi, certo. Su questo devo dire che c'è stata qualche voce dissenziente o qualche parere contrario. È molto, come si dice, è ammucciata, come si dice qua a Palermo. Nascosta. Ammucciata è bellissimo. Però oggi, per esempio, mi facevano notare che Stefania Craxi, che certo non è un esponente di punta del PDL, per carità, è sottosegretario, diceva, dobbiamo chiedere scusa almeno questo agli elettori, ed è stata subito zittita dagli altri. Ma adesso c'è un po' di orgoglio da parte di tutti a non farlo, perché... Nel Partito Democratico... È un po' troppo tardi. Sì, sicuramente. Nel Partito Democratico, per esempio, c'è la posizione di Cacciari, a parte che il Partito Democratico adesso è a difesa di Napolitano contro l'Italia dei Valori. Ma in ogni caso sul problema generale del decreto c'è Cacciari che già da qualche giorno va dicendo, insomma sì, sarà pure una cosa che non va fatta, però poi bisogna garantire la rappresentanza delle forze politiche, eccetera eccetera. Dunque qualche voce c'è, forse ammucciata, come meglio dice... che però qualcuno della sinistra dicesse noi in blocco non andiamo alle elezioni. Ma che significa non blocco, non andiamo alle elezioni? Uno mica è masochista. Guardi che la Bonino per esempio paventa questa possibilità di una sorta di Aventino boniniano, Aventino radicale. Però poi alla fine quelli dall'altra parte, no, penso che andranno tutti a votare. Scusi, questa storia dell'Aventino, del possibile ritiro della candidatura da Bonino è una buffonata, lei lo sa. Però no, io le voglio dire una cosa, io l'altro giorno mi è arrivata una bella cartella esattoriale. Sì, anche non a me ogni tanto. Singolo. Perché a Palermo qua eravamo almeno 300 persone che dovevano andare a pagare qualche cosa. Allora? Ebbene, io le posso dire una cosa, io sono arrivato all'1:05 con il mio turno, preso alle 9 della mattina, per poter pagare qualche cosa che volevo pagare. Sì. Sono arrivato all'1:05 a doverlo fare. Ecco, all'1:05 mi hanno mandato via, mi hanno detto non si preoccupi, la può pagare con il raddoppio della sanzione. Sì, lo so, lei ha perfettamente ragione. Guardi, io è un argomento che ho toccato molto la settimana passata quando... è uscito fuori questo problema, diciamo che il suo diritto o comunque il suo dovere di pagare quella cartella esattoriale entro quel termine e poi la cosa viene raddoppiata, oppure il diritto a partecipare a un concorso e se si arriva con un minuto di ritardo non si può partecipare, è sicuramente un diritto importante. Però, leggo da Giorgio Napolitano, non era sostenibile che potessero non parteciparvi nella più grande regione italiana il candidato presidente della lista del maggior partito politico di governo. Cioè c'è un bene meritevole di tutela, che è quello della rappresentanza, quello dell'osservanza delle norme, ma anche quello della presenza delle forze politiche. Che vogliamo fare? Chi vince? Un po' più coraggio a dire qualcosa. Ma insomma, ha sbagliato o no Napolitano, Marco, secondo lei? Secondo me, io devo dire la verità, secondo me ha sbagliato. E lei utilizzerebbe le parole golpe, sovversione? Qualcosa di corretto da un punto di vista istituzionale? Perché sicuramente quando vanno a firmare qualche cosa si girano e si rigirano fino a quando non capiscono che possono farlo, per non mettersi nell'errore. Se poi l'opinione pubblica dice qualcosa o meno, se ne fregano. Vabbè, ho capito, ma è giusto parlare di golpe, di sovversione come fanno Di Pietro e De Magistris? Ma secondo me quello è per tirare un po' più l'attenzione. C'è la campagna elettorale, certo. Siamo qui 19:18 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire come ci presenta i fatti del giorno e il TG3. Napolitano per l'8 marzo, gli italiani credono nella Costituzione, in una democrazia rispettabile, non servono atti di coraggio. Attesa per la sentenza del TAR sulla lista PDL nel Lazio, Maroni rinvio elezioni da evitare, Enrico Letta da domani ostruzionismo totale. Per la prima volta in 82 anni una donna a vincere l'Oscar come migliore regista, Catherine Bigelow ha sbaragliato Avatar. Il tasso di occupazione femminile in Italia è ancora al 45%, il TG3 all'OMS di Faenza dove 350 donne perdono il lavoro. In Nigeria gruppi di pastori nomadi musulmani armati di fucile e macete hanno ucciso 500 cristiani, tra cui donne e bambini. In carcere i killer del ragazzo che non voleva diventare camorrista, lo hanno ucciso un anno fa con 7 colpi di pistola. Siamo tornati a Sarno, 12 anni dopo la devastante alluvione, i lavori per la messa in sicurezza, dicono i geologi, sono inadeguati. E da Sarno ai titoli di Sky TG24. Attesa la decisione del TAR sulla lista del PDL nel Lazio, ripresentata la lista Polverini. Maroni chiede ai giudici di decidere in fretta, PD e Italia dei Valori preparano nuove proteste. Napolitano, il paese crede nella Costituzione, in democrazia non servono atti di coraggio. Il voto in Iraq, in testa al Maliki, decisiva a Baghdad, Frattini le elezioni, un grande successo. Gli scontri interreligiosi in Nigeria, i morti sono 500, appello di Ban Ki-moon alla moderazione. Camorra venne ucciso a 17 anni perché disse no al clan, 3 persone in manette. Teramo, picchiarono a morte uno studente di 23 anni, condannati 2 rom minorenni. Addio ad Alberto Ronchey, giornalista e scrittore, aveva 84 anni, fu anche ministro. Catherine Bigelow con The Hurt Locker domina la notte degli Oscar, Jeff Bridges miglior attore. Calcio, Moratti critico con l'Inter, alla squadra è mancato il carattere, dice il presidente. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Sotto tiro il Presidente della Repubblica, non da parte dei radicali, a dire la verità, che comunque se la prendono con il decreto, e addirittura la Bonino minaccia un Aventino particolare che poi sarebbe il ritiro della candidatura. Non accadrà mai, però... Io ci sto veramente pensando se valga la pena di giocare con i Bari. perché ho l'impressione che chi ha avuto il coraggio di fare questo decreto non so cosa ci riserva le prossime 3 settimane. Siamo solo spaghetti e mandolini, allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto. Ma i due nemici di Napolitano in queste ore, chissà come trasformeranno queste parole poi nella manifestazione di sabato, e chissà se ci sarà la manifestazione unitaria tra Partito Democratico e Italia dei Valori, insomma del centro-sinistra, e con il popolo viola, eccetera, eccetera. E sono Di Pietro e De Magistris. Qualcosa che ancora non abbiamo ascoltato di Pietro, che evoca addirittura l'impeachment. Vorremmo, prima di poter procedere con azioni formali, capire cosa ha spinto il Capo dello Stato a non salvaguardare i principi costituzionali basilari rispetto a chi cambia le regole del gioco nel mentre si sta giocando la partita. La gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani. Vabbè, dopo l'impeachment potremmo chiudere qua la trasmissione, non c'è più nulla da dire. Quando un politico evoca l'impeachment nei confronti di Napolitano senza sapere se una norma è costituzionale o anticostituzionale, ma insomma siamo a un qualcosa di assolutamente fantasioso, per usare un eufemismo, De Magistris. Ci troviamo di fronte a un Presidente della Repubblica che sta avallando da troppo tempo, in modo reiterato, provvedimenti contro la Costituzione Repubblicana e contro soprattutto le fondamenta della Costituzione Repubblicana. Questo è un fatto inaccettabile e quindi noi, come dire, in questo momento vogliamo alzare la vigilanza democratica e denunciare l'assoluta inadeguatezza della Presidenza della Repubblica a difendere la Costituzione Repubblicana. Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora in fila, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità. Gocce di fango su di me, io non volevo un altro capolista. Cerca di aiutarci a fare chiarezza, perché abbiamo il diritto a sapere e a chiedere all'uomo che non riuscì a arrivare in tempo con la lista per il morsi della fame. Vorremmo sapere da lui se nel panino c'era il cotto o la mortazza. Se c'era la mortazza, beh allora. Che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Alfredo Milioni, sentiamo, se lo becchiamo. Telefonino di Alfredo Milioni, No. Salve, cercavamo Alfredo Milioni. In questo momento non c'è, chiedo di sì. Qui a Radio 24, con chi parlo? Non c'è, è la segreteria. Ah, salve, senta, ma dove lo possiamo trovare? Sono giorni che lo cerchiamo. Lo so, in questo momento non c'è, non so che dire. Ma come mai non risponde al telefono? Cioè... No, mi scusi un attimo, aspetti, niente. Io non volevo un altro capolista, sai, non mi crederai mai. Gocce di fango su di me e sul panino, ripieno di amarezza. L'unica voce che rimane di quest'uomo finora è questa. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora in fila, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità. Panino, ma penso a te. Va bene, ascoltatori, Mario da Torino, buonasera Mario. Salve. Dica. Io credo che non ci sia moltissimo da essere allegri in questa situazione. Perché? Non ci possiamo scherzare sopra? Berlusconi e la sua gang. La gang. Sono abituati. Dormite, le pesco così. Mi sembra più. No, per carità. Sono abituati ad avere fastidio della Costituzione repubblicana. sono abituati, mi scusi, non ho capito bene, ad avere un fastidio, fastidio per la Costituzione repubblicana che è sempre stata stretta con le famose leggi a personam che tutti conosciamo. Ma questa volta hanno fatto franare in qualche modo le garanzie, il potere ha strapazzato completamente le regole in un braccio di ferro con il Quirinale, tra l'altro, che non viene evidenziato, perché quello che è avvenuto nella notte... Sì, c'è stato uno scontro, c'è stato uno scontro molto forte, sì. Deve essere evidenziato, perché d'ora in poi questa mossa notturna lascerà il segno sui rapporti futuri istituzionali all'interno... Vabbè, vedremo. Mario. Quindi io credo che sia una questione molto seria. Dopodiché poi ci si può ridere, ci può scherzare sopra, però ne va veramente della nostra democrazia e delle nostre garanzie costituzionali, che questo governo ha dimostrato di non amare assolutamente e di snaturare nella maniera più assoluta. Va bene, grazie a lei. Antonio da Parma. Sì, buonasera, sono Antonio Boschi. Prego, Antonio. Niente, la mia opinione è che il Presidente della Repubblica aveva un'altra possibilità che non ha utilizzato, quella di rimandare Berlusconi dicendo presentati con tutti i partiti oppure decidete tra di voi, e secondo me il PD non avrebbe rifiutato un discorso del genere perché avrebbe guadagnato anche dei punti alle elezioni. Accettando, come deve essere giusto, di riaccettare le liste del PDL nonostante gli errori, ma ha sbagliato in modo particolare Berlusconi ad imporre un decreto legge in barba a tutte le opposizioni, piccole e grandi, che si sono sentite defraudate da una decisione del genere, che comunque non so se sia costituzionale o meno, penso che non lo sia. Vedremo se è costituzionale o no. In queste ore si intrecciano interpretazioni più disparate, anche piuttosto confuse e devo dire alla fine poco interessanti per i cittadini. Per esempio Maroni dice: se il TAR elimina la lista nel Lazio, una decisione attesa a minuti, il decreto non serve. Dunque che l'hanno fatto a fare questo decreto? Poi Formigoni è stato riammesso senza decreto. Dunque insomma, ci sono delle cose ancora abbastanza incomprensibili. Bene, 19.34, 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Avete sentito dal Breaking News, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato al PDL, dunque la lista del PDL resta fuori. Secondo l'interpretazione data dal ministro degli interni Maroni nel pomeriggio, pochi minuti fa anzi, il decreto non serve per il Lazio e dunque la lista del PDL resterebbe fuori. Però Maroni ha aggiunto una cosa: i giudici decidono oppure ci potrebbe essere il rinvio delle elezioni. Dunque nel Lazio aleggia questa possibilità, ma vedremo più avanti naturalmente nei commenti degli ascoltatori, ma soprattutto di chi si intende di queste cose che sono molto complicate. Il numero è sempre lo stesso, 800 24 0024. Andiamo a Roma. Mario, buonasera. Buonasera a lei Cruciani e a tutti gli ascoltatori. Diciamo, io prima di entrare nel vivo del mio intervento volevo provare, se me lo permette, a convincerla, diciamo, che la decisione presa dal Presidente è forse il male minore. Io diciamo, cittadino, mi sento sbeffeggiato quando la classe politica rimaneggia a suo piacimento le regole che essa stessa ha posto. Sì, però sì. Diciamo, come cittadino, io so, fra l'altro sono elettore di sinistra, non di Berlusconi, però diciamo, sono fiero di vivere in una democrazia e mi dispiacerebbe che i miei concittadini fossero privati del diritto di votare per una norma burocratica. Quindi alla fine... Sì, è anche vero, mi scusi un attimo Mario, qui non si tratta del candidato Polverini, cioè della possibilità che esista un candidato Polverini, qui si tratta di una cosa diversa, cioè la lista del PDL scusate, in provincia di Roma, la lista del PDL in provincia di Roma. Ora, se c'è stato un errore che riguarda la provincia di Roma, cioè la lista del PDL è presente in tutte le province del Lazio tranne a Roma, certo è una provincia importante, quello che vogliamo. Però il problema è questo, cioè non si tratta dell'esistenza della Polverini, dunque della possibilità di votare un candidato o no, non c'è una competizione falsata, c'è una lista che per alcuni errori, mi sembra a questo punto abbastanza evidenti, perché insomma due giudici diversi hanno certificato questo, non può presentarsi, cioè, può succedere anche, no? Sì, sono perfettamente d'accordo, però diciamo, nonostante io sia dall'altra fazione, vorrei che comunque... diciamo chi è chiamato a governarci sia scelto dalla maggioranza. Cioè, io non voglio che ci sia un'imposizione per un... No, ma questo l'ho capito, Mario, però in questo caso gli elettori del PDL, gli elettori del PDL di Roma, diciamo della provincia di Roma, possono votare la Polverini. Poi voteranno la destra, voteranno l'UDC, gli altri partiti della coalizione in provincia di Roma. Certo, il danno l'abbiamo quantificato la settimana scorsa, potrebbe essere il 2%, d'accordo? Ma insomma, in politica, in democrazia succedono queste cose. Succede di commettere gli errori e di pagare gli errori, altrimenti di che parliamo? Comunque, diciamo, il mio intervento, diciamo, in teoria verteva su, diciamo, un'abitudine tutta italiana di diciamo, risolvere i problemi con la parola giusta. In questo caso il decreto è un decreto interpretativo, le faccio qualche altro esempio, il termovalorizzatore suona meglio di inceneritore, oppure il body scanner a onde millimetriche forse fa un pochino meno impressione di un body scanner a microonde, ma la sostanza è quella. No, è vero, lei ha ragione, decreto interpretativo è una formula usata per sostenere che insomma non è un decreto vero e proprio, ma se in realtà è un decreto, punto, poi chiamiamolo interpretativo così per addolcire la pillola, no? Cornuti e maxiati, insomma, ecco. Grazie, anche lei è uno di quelli che magari si è presentato davanti a un ufficio, eccetera, e per poco... No, a me personalmente, diciamo, non è successo, però vedo che, diciamo, anch'io, diciamo, ho dovuto pagare magari sanzioni per una dimenticanza, tutto qua, quindi colpevole ho pagato, accetto di buon grado le norme, insomma, tutto qua. Grazie. Grazie a lei. Stefano, provincia di Milano, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Ma senta, lei ha aperto la trasmissione, sì, stigmatizzando, secondo me giustamente, sì, certe dichiarazioni di Di Pietro. Sì, guardi, perché Stefano, io avrò anche una posizione piuttosto strana su questo, però la mia posizione è... qui dalla Zanzara sul tema della presentazione dell'ISS è sempre stata abbastanza chiara, forse sui generis perché non mi allino a nessuno schieramento, però è questa la posizione, cioè io penso che gli errori si pagano anche in politica e anche quando si tratta della presentazione di una lista importante, dunque secondo me bisognava andare ai TAR e affrontare fino all'ultimo grado per capire se una lista può essere ammessa o no. Io ero contrario sin dall'inizio alla presentazione di un decreto, poi capisco la politica che evidentemente ragiona in modo diverso rispetto agli osservatori e la politica deve garantire alcune cose, come ha spiegato Napolitano. Detto questo, la manifestazione, il golpe, queste sono sciocchezze. Io sono d'accordo con lei su questo, quindi non ho da interloquire su questo. Trovo però che ci sia insomma un'abitudine, non solo da parte sua, ma insomma da parte di molti commentatori, no? A bacchettare continuamente le intemperanze, giustamente, perché le intemperanze vanno bacchettate, di una parte della sinistra, ma non si fa altrettanto con quello che dice la destra. Lei ha sentito cosa ha detto, cioè Berlusconi ha parlato di stato di polizia in questi giorni. Sì, parlava di stato di polizia su un'altra questione, non sì, su queste questioni qua. Però, sì, no, ma è ridicolo lo stesso, è ridicolo lo stesso. È un'altra questione. È ridicolo lo stesso, Stefano. La Polverini è intervenuta, io ho seguito la diretta, è intervenuta in piazza gridando democrazia, democrazia, democrazia. Sì, lo so, l'abbiamo mandata. Messa in gioco la democrazia. L'abbiamo mandato più volte, ma Stefano, lei ha perfettamente ragione. Guardi che questa è un'operazione che noi abbiamo fatto la settimana scorsa, abbiamo fatto ascoltare tutto, eccetera. Mica critichiamo solo Di Pietro quando dice delle stupidaggini. Di questo. Poi è chiaro che il dibattito si inasprisce. Insomma, non ci si può aspettare. Io poi parlo da uomo di parte, perché io sono un militante del PD, di quelli, sì, sì, di quelli delle flamelle, insomma. Ecco. Ma lei, ecco, però Stefano, mi scusi, lei andrebbe in piazza a manifestare su una cosa del genere? È giusto andare a manifestare, a manifestare per questa storia del decreto? È giusto, secondo lei, che il suo partito abbia deciso una cosa del genere? Lo condivide? Io andrei in piazza a manifestare per questa storia del decreto, perché credo, sì, che dal punto... guardi, io ho una posizione anch'io strana. Io penso che Napolitano abbia fatto bene a fermarlo. Ok? Sì, per il ruolo istituzionale che ha Napolitano e il Presidente della Repubblica. Penso che da un punto di vista politico questo decreto sia molto grave, perché vede, il problema non è tanto di me cittadino che quando pago la bolletta se ho un ritardo eccetera eccetera eccetera. Il problema è, per esempio, di elettori di altre liste che sono stati esclusi dal diritto di voto, insomma, per errori delle liste, magari giustamente. Ma cosa possono dire quegli elettori lì? coloro che in altre regioni sono stati esclusi per errori delle liste, eccetera. Potranno tutti sollevare una qualche eccezione, potranno dire che il loro diritto di voto non è stato correttamente, come dire, non gli è stato correttamente attribuito. Cioè, io trovo che l'errore di quel decreto non sia, prima che istituzionale, sia veramente un errore politico. Un errore politico, e forse è un errore politico che verrà pagato in sede elettorale, questo non ne sono sicuro. Sentiamo se non è registrato, perché vedo da Sky TG24 la Polverini, ancora, che ha parlato Polverini brevemente con noi giornalisti, ci diceva che appunto attende di leggere con esattezza le motivazioni del cronaca. TAR per valutare eventuali passi successivi. Pensavo fosse la Polverini di diretta a Roma, non è la Polverini di diretta a Roma, ma era una Polverini vecchia di qualche giorno fa. Stefano, aveva concluso lei? Io in piazza per quanto la fai, potevo. Cioè non va a Roma, non va a Roma a manifestare sabato. No. No. Però sono d'accordo con chi ci va in questo caso, ecco. Poi con toni totalmente diversi da quelli che userà Di Pietro, perché io non amo particolarmente Di Pietro, anzi non amo per nulla. Però trovo che sia grave comunque, trovo che sia un atto grave il fatto di farsi un decreto che in qualche modo, poi io tra l'altro avendolo letto non mi sembrava neanche tanto interpretativo quel decreto lì, però non sono un tecnico, ma comunque un decreto che cambia le regole del gioco a partita in atto. Questo poi istituzionalmente si poteva anche fare, per carità, però dal punto di vista della correttezza nei confronti del cittadino, io sono dell'idea che il politico, quando parla, le cose che un politico dice valgano anche oltre il momento in cui le ha dette, no? E mi piacerebbe una politica che agisse anche con questo senso della correttezza, con questo senso dell'etica. Secondo me questo senso è mancato nell'espressione, nella provocazione di questo decreto. Grazie. 800 24 00 24. Mario Segni, buonasera. Lo conoscete tutti, professore ordinario di diritto civile all'Università degli Studi di Sassari, ma insomma ha fatto per tanti anni politica, continua a farla ancora. Senta Segni, ha sentito l'ultima notizia, no? Sul TAR? Ho sentito pochi minuti fa. Però c'è una cosa abbastanza strana che sta accadendo. Maroni dice che il decreto fatto non copre questa situazione. Che significa secondo lei? Francamente non no, adesso si va alle interpretazioni. Sì, qui bisognerebbe mostrare le motivazioni del TAR Lazio, non sono in grado di dare una risposta a questo. Da un punto di vista un po' maligno, se vuole un commento non giuridico, mi viene spontaneo quel diavolo fare pentole ma non i coperchi. È vero, ma siccome è una cosa che Maroni ha detto prima del pronunciamento del TAR, allora davvero non si capisce. Comunque adesso poi si verificherà questa cosa, perché ha parlato anche di un possibile rinvio delle elezioni se il TAR non avesse deciso in fretta. Lei ha criticato oggi, anzi ieri, in un intervento sul quotidiano Il Fatto, il decreto del Presidente della Repubblica e soprattutto l'operato di Napolitano. Perché? Non è usuale che lei critichi Napolitano, naturalmente. No, e come avrà visto anche era una critica serrata, convinta, ma mi sembra anche garbata. Non il golpe di Di Pietro. Non il golpe, folle parlare di impeachment, però io ritengo, e l'ho scritto e continuo a pensarlo, che Napolitano non solo abbia sbagliato, che sia venuto meno gravemente al suo dovere principale, che è quello di tutelare la Costituzione e il corretto funzionamento delle istituzioni. Però mi scusi, anche scrivendo così, lei dice che sicuramente la Costituzione è stata violata, cosa che non è certa. Lo dico e sono assolutamente convinto. È stato violato un principio sostanziale che poi non è, rientra formalmente nella Costituzione, ma è anche un principio che è alla base di tutto il sistema democratico e che è stato finora sempre accettato e ritenuto insuperabile, e cioè che le regole elettorali non si cambiano a gioco aperto e soprattutto non si cambiano in modo retroattivo. Però è già successo nel 2005, per esempio. No, non è successo, guardi, lì si è spostato prima del termine. Prima del termine, certo. Un termine, prima del termine di presentazione, ma prima del termine, non dopo. Però sono state modificate al di là del termine, al di là del fatto che la modifica è avvenuta prima della scadenza del termine, in ogni caso sono state modificate le regole, perché fu... Intanto, guardi, sono state modificate prima che si venisse l'evento e poi sono state modificate per tutti. Qui sono state modificate per due casi. case, diciamo la verità. Beh, sì, diciamo dal punto di vista sostanziale, sì, però in realtà poi il decreto è stato fatto per tutti, mica solo per le liste del PDL, che non vengono chiaramente nemmeno citate nel decreto, come è normale che sia, no? No, ma lo sappiamo, no, perché no, è stato però, fatto, guardi, certo. Il caso del 95 fu molto diverso, Qui è stata riscritta sostanzialmente una parte delle leggi elettorali, sono quattro articoli che cambiano notevolmente in tutta una serie di parti. Dunque, secondo lei Napolitano non avrebbe dovuto firmare perché la cosa modificava sostanzialmente le leggi elettorali? Beh, sa, a un certo punto, se non c'è il motivo costituzionale a cui si attiene il Presidente della Repubblica, a che altro principio si deve attenere? Io credo di più, credo che non solo Napolitano abbia permesso un grave precedente, perché lei mi parla di un precedente, giustamente il 95, cui precedenti contano, ma questo precedente è 10 volte più avanzato, quindi non sappiamo in futuro come sarà applicato, ma credo che si sia persa anche una grande occasione per dare invece al Paese un grande segnale, che è quello del rispetto della legalità. Le leggi si rispettano, punto e basta, non si discute neanche. Dunque, secondo lei hanno ragione, per esempio, quelli che i tanti cittadini che stanno scrivendo, che ci stanno chiamando, che dicono: io quando vado in ufficio, magari mi presento in ritardo di un minuto, perdo qualcosa, devo pagare c'è il raddoppio della multa, non riesco a fare quel concorso, e invece poi, quando si tratta di cose di questo tipo, si possono modificare le regole. Ma intanto le dico la verità, che casi di questo genere se ne sono verificati a centinaia in passato, di liste non ammesse, di liste presentate in ritardo e che non si sono presentate, di liste importantissime, di comuni in cui è stato escluso il sindaco. L'altro giorno ho letto sul giornale: il sindaco di Monteporzio Cattone e la sua lista uscente sono stati esclusi perché hanno presentato in ritardo la lista. Ricordo un caso in Sardegna di un importante comune, Alghero, in cui la Democrazia Cristiana negli anni 80, che prendeva la maggioranza assoluta, fu esclusa dalle elezioni perché erano arrivati a presentare mezz'ora dopo. Sì, tra l'altro nessuno di noi, io ero democristiano, nessuno si scandalizzò o protestò. Noi protestavamo contro i nostri dirigenti che avevano fatto la fesseria di arrivare in ritardo. Se no, tra l'altro, io su questo sono d'accordo, lo dico subito perché in realtà nel Lazio, in Lombardia, la cosa è stata sanata prima. Non si capisce perché Formigoni, fino a 3-4 giorni fa, aveva praticamente detto a Berlusconi: guarda, io faccio a meno anche di questa cosa, perché sicuramente al TAR la cosa passa. Infatti è passata senza decreto. Senza decreto. Nel Lazio la situazione non è che la Polverini non possa partecipare alle elezioni. Dunque gli elettori, no, cioè, Polverini partecipa. Partecipa, manca la lista. La lista a Roma. Esatto, in provincia di Roma. Dunque qual è il vulnus alla democrazia? Io questo certamente è una mancanza grave, perché la lista del PD alla Roma è importante. Certo. Però non è che gli elettori del centrodestra sono privati della possibilità di votare un loro candidato, che sarebbe stato sicuramente grave, no? Certo. Guardi, il vulnus, la democrazia è fatta di regole. Il vulnus alla democrazia è non rispettare le regole, questo è il dato reale. Senta, perché Di Pietro si è messo a fare questa chiassata, il golpe, l'impeachment, De Magistris che parla di... Di Pietro, sai, è un estremista e quindi si comporta anche in queste occasioni da estremista. Ha ragione a dire che Napolitano, lo dico anch'io, ha gravemente sbagliato, poi l'impeachment è assolutamente una follia. Detto tutto questo sulle responsabilità del Presidente della Repubblica, che io ritengo gravi, naturalmente non dobbiamo dimenticare che altrettante responsabilità sono sul governo che ha proposto il decreto. Senta, però lei dice responsabilità gravi, no? Ma un governo che va là, c'è stata anche una discussione forte, pare una litigata anche piuttosto vibrante tra Berlusconi e lo stesso Napolitano, c'era stata una prima versione del decreto, Napolitano non la voleva, insomma, a un certo punto il Presidente della Repubblica cosa può fare? Cioè, lei dice responsabilità grave, ma che può fare Napolitano di fronte al fatto che poi si portano diverse versioni di questo decreto, e quella, diciamo, che sembra più costituzionale, il Presidente poi la deve firmare o no? E perché? Il Presidente può non firmare affatto. Io credo che dovesse non firmare e non si faceva il decreto, punto e basta. Per una evidente incostituzionalità. Per una evidente incostituzionalità. Tra l'altro, adesso il Partito Democratico dice a tutti quanti: questa è una vergogna, addirittura scendiamo in piazza per difendere la legalità, però Napolitano ha fatto bene. Sì, è una contraddizione. Una contraddizione aperta, perché se una violazione alla legalità il Presidente della Repubblica non doveva permetterlo. Dico anche che non è neanche un modo per aiutare Napolitano questo. Perché in tempi difficili come questi il Presidente della Repubblica è sottoposto a pressioni terribili, e lo è stato in passato e spesso ha resistito, e io gliene sono grato e va dato atto. Per aiutarlo in futuro, perché può darsi che si verifichi, è molto meglio invece dire apertamente: noi abbiamo grande stima e ti ringraziamo per quello che hai fatto, ma questa volta hai sbagliato. così si sentirebbe nel paese una voce che richiama anche il Presidente alla linearità dei suoi comportamenti. Certo, è curioso che l'ex presidente Scalfaro oggi sul Corriere della Sera sia più o meno sulla posizione di tutti i dirigenti del PDL: bisognava garantire la partecipazione al voto, io avrei rinviato le elezioni, eccetera, eccetera. Certo, diverso da Napolitano, però vabbè, è la democrazia, insomma. Sì, la democrazia, sono più per carità. Diverse, insomma, naturalmente. Ma insomma, guardi, io credo che uno dei problemi più gravi dell'Italia di oggi sia che si sta perdendo il senso della legge. Questo purtroppo in 100.000 campi. Questo è un ulteriore passo in quella direzione. Ricordiamo che cos'è la democrazia. In certi momenti la decisione si regge sulle regole, e anche se è discutibile, a un certo punto non si può mettere in dubbio. Non dimentichiamo, la prima volta Bush Junior fu nominato, si ricorda, dopo la famosa contestazione, sulla base di una decisione locale che era probabilmente discutibilissima, non solo era basata su poche centinaia di voti, ma era anche messa in discussione nelle sue formalità. Beh, una volta che la decisione fu presa, il dibattito si chiuse, l'America disse: noi abbiamo il nostro presidente. Ci furono ricorsi anche là, proteste, cose. Ma il giorno dopo la decisione ormai l'America aveva il suo presidente, lo stesso candidato democratico accettò immediatamente, gli aveva dato atto. Perché la forza di un paese è nel rispetto delle sue regole e delle sue decisioni. Se si toglie questo, c'è il sopruso, come avviene purtroppo in questi casi, perché diciamo la verità, cosa hanno detto tutti i cittadini, hanno pensato? Hanno fatto un decreto male, a bocce, a gioco aperto, eccetera, ma l'hanno fatto perché erano i più forti. Per i piccoli non l'avrebbero fatto. Allora, grazie. Il TAR del Lazio intanto sostiene che non c'è certezza né prova che il delegato del PDL, il famoso Milioni, all'atto della presentazione della lista avesse con sé tutta la documentazione. Dunque, in realtà mancava pure una parte della documentazione. Chissà cosa è successo in quell'ufficio elettorale romano il 27 di febbraio, abbiamo cercato di ricostruire nei giorni scorsi, certamente un gran pasticcio. Grazie, Segni. Grazie a voi. 19.54, Claudio da Brescia. Claudio, pronto? Sì, pronto. Dica. Era un po' che aspettavo. Lo so, Claudio, succede nella vita, bisogna aspettare, fare le file. Niente, volevo solo se arriva in ritardo. Su due argomenti, se possibile. Poi c'è il decreto interpretativo. Sì, dica. Questo paese è altro che Repubblica delle Banane. E qua è la Repubblica dello yam yam, c'è con le banane enormi. Dei decreti interpretativi più che gnam gnam. Gnam gnam, esatto. È quello al bar, si fa i panini. No, quelle banane enormi che sembrano banane ma non sono banane, sono verdura. Vabbè, lasciamo perdere. Io sono stato all'estero, ho vissuto all'estero. Dove ha vissuto, Claudio? Il paese forse peggiore che ho visto. Dove? Qual è il paese peggiore? La Nigeria. Nel 74-75, tre colpi di Stato in tre mesi, ammazzati, Murtala, Gowon e tutto il resto. Ma io non ho mai visto un paese come l'Italia. Perché dice? Il paragone è improponibile. Vabbè, adesso la Nigeria. Sono delle cose che non stanno nel cielo né in terra. Siamo ancora lì con le liste per andare alle elezioni. Guardi, Claudio, sarà firme. Sì, sarà pure il paese dei TAR, dei mille ricorsi, forse, però rispetto alla Nigeria, qualche cosa in più ce l'abbiamo, qualche garanzia in più. Che guardi, dice? Però certe cose non succedevano neanche in Nigeria, mi creda. Adesso, per carità, con tutto il rispetto per la Nigeria. Poi, comunque, volevo dire per sì. Di Pietro. Sì. Tutti i saloni, talk show da porta a porta, continuano a menarla con questo Di Pietro, fargli una grande pubblicità. Lui vuole solo farsi pubblicità prendendo i voti da chi odia Berlusconi e Napolitano. Lui va contro tutti per prendere un po' più voti, perché cosa interessa a lui? I rimborsi elettorali, più voti prende, più soldi prende, tutto lì. Al resto non gli frega assolutamente niente. Vabbè, adesso perché ridurre la politica solamente ai rimborsi elettorali? Rimborsi elettorali. No, Di Pietro è quello. Allora, pure gli altri, secondo questo ragionamento. In ogni caso, i rimborsi elettorali dovrebbero servire, come diciamo ormai da giorni, a pagare uno stuolo di persone, una sorta di plotone di gente che presenta le liste in tempo, in maniera ordinata, con i bolli giusti e con le firme giuste. Siamo qui, 20 in punto, 800 24 00 24. Arrivano notizie clamorose dal TAR del Lazio. Siamo sempre appesi ai TAR, come al solito, ma tant'è, forse è meglio questo di altro. Dunque, secondo il TAR del Lazio, il decreto legge non può essere applicato. Come dicevamo prima, il decreto legge salva liste non può trovare applicazione perché la Regione Lazio ha dettato proprie disposizioni in tema elettorale, esercitando le competenze date dalla Costituzione. A seguito, vabbè, poi c'è tutta una spiegazione tecnica. Io non capisco come fior di costituzionalisti convocati dal Quirinale, da Berlusconi, non siano arrivati a una soluzione molto semplice. Ma prima di questa decisione del TAR, cioè che non si poteva fare un decreto legge su Lazio, per esempio, perché il Lazio aveva scelto una sua strada e ci sono delle competenze regionali. Bah, misteri, TG5. Regionali, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso del PDL, la lista per ora resta fuori, la parola passa al Consiglio di Stato. Maroni, se il TAR dice no, il decreto non serve, la lista è fuori. Napolitano, esigete sempre il rispetto della vostra dignità di donne. 8 marzo, tra piccole e grandi conquiste nel mondo che cambia. Massacro di cristiani in Nigeria, almeno 500 morti, uccisi a colpi di macete da pastori nomadi musulmani che hanno attaccato i villaggi dei contadini. A 17 anni pagò con la vita il rifiuto ad affiliarsi al clan camorristico per l'omicidio del ragazzo ucciso il 25 aprile dell'anno scorso, presi mandante e killer. Mario Alessi, l'assassino del piccolo Tommy, racconta in un video un'altra verità raccolta in carcere sul delitto di Meredith Kercher. Grande Fratello, stasera sapremo chi si aggiudicherà i 250.000 euro tra Mauro, Alberto, Giorgio e Cristina. Edizione dei record mai durata così a lungo. Va bene, TG1. Regionali, TAR del Lazio respinge ricorso PDL, lista per provincia di Roma per il momento resta fuori. Maroni, giudici decidano in fretta. Napolitano, gli italiani si riconoscono nella Costituzione nonostante differenze politiche, in democrazia non servono atti di coraggio. L'8 marzo compie 100 anni, siamo andati a vedere che cosa succede negli uffici dove le donne sono la maggioranza. Mimose a Los Angeles, Catherine Bigelow, prima donna, vince l'Oscar per la regia, 2 premi all'Italia. Assiste ad una rapina in farmacia, insegue il ladro in auto, lo fa arrestare, è accaduto nel Bergamasco. Falso psicologo vicino a Torino, onorari salati e tasse mai pagate, l'esperto, danni gravi per gli inconsapevoli clienti. Un super pomodoro contro i tumori alla prostata, dalla ricerca italiana nasce un prodotto dalle qualità eccezionali. Va bene, prima della 7, insomma, pare abbastanza certo che il decreto che è stato fatto dal governo nei giorni scorsi non è valido per il Lazio. Dunque è incredibile, hanno fatto un decreto che non si applica a Lazio, lì dove bisognava in realtà poi applicarlo, perché il TAR aveva già deciso per la riammissione della lista Formigoni in Lombardia. Adesso cosa succede? Già c'è qualche politico che dice adesso faranno un decreto legge per sciogliere il tribunale. Va bene, Luigi da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, secondo me quello che emerge, a prescindere dal fatto che se il napoletano abbia fatto bene o male a firmare o no, è che siamo in mano a una banda o di incapaci o di bugiardi, sicuramente di prepotenti. E comunque vada, non penso che sia una situazione piacevole per il paese. Sì, Luigi, io francamente non generalizzerei. Cioè, incapaci è stato per esempio un termine utilizzato da Rotondi nei confronti del PDL a Roma. Io sono d'accordo, però non è che sono tutti incapaci. È una storia in cui ci sono stati degli incapaci e secondo me bisognava primo punire gli incapaci, secondo rendersi conto del pasticcio che è stato fatto, perché è stato fatto un pasticcio, non è stato usato nessun sopruso nei confronti di quelli del PDL che se la sono giocata tra di loro dentro quei corridoi del tribunale per chissà quali motivi che non sapremo mai con esattezza, e terzo non mettere a repentaglio il prestigio del Presidente della Repubblica con questa storia del decreto legge. La cosa del decreto legge, comunque, è stata una cosa di arroganza da parte penso di Berlusconi, che insomma fa un po' parte del suo carattere, decido io, faccio io e sistemo io, e invece di aspettare il parere dei giudici, che poteva pure essere positivo come è stato a Milano, ha detto io faccio il decreto e risolvo tutto quanto, però così ha combinato, si è alzato ancora più polverone invece di fare un bagno di umiltà dicendo sì, abbiamo sbagliato, cerchiamo di sistemare, perché poi insomma penso che si sia tutti d'accordo sul fatto che non si può andare con una lista unica, anche se poi non sarebbe la lista unica perché si può votare Storace o l'UDC eccetera eccetera. Sì, ma in provincia di Roma, Luigi, non in tutto il Lazio, in provincia di Roma non si potrà votare molto probabilmente per il PDL. Hanno fatto un pasticcio i pasticci si pagano, punto. Nella lista è chiaro che la candidatura della Bonino non poteva essere a rischio, come non poteva essere a rischio l'esistenza della candidatura Formigoni. Questo è evidente, ma in questo caso l'irregolarità riguarda la lista del Lazio. Dov'è il vulnus alla democrazia? Dov'è il vulnus alla democrazia? Non esiste. Perché non sono abituati a pagare gli sbagli, nessuno. E poi c'è pure un'altra cosa, l'offesa proprio all'intelligenza dei cittadini, quando quello dice ero andato a mangiare un panino. Io non posso pensare che quello sia veramente così incapace, perché comunque sono 20 anni che fa quel mestiere, non è la prima volta che porta le liste e a presentare le liste, non è che è andato a mangiare un panino, sia veramente pensano che noi ci beviamo qualunque fesseria. E ora in più c'è pure il fatto che non ci sono i talk show di approfondimento politico, e queste cose sì, se ne parla con Cruciani, se ne parla un po' eccetera, ma poi alla fine parecchie cose non emergono. Vabbè, adesso sì, certamente è un problema, se ne sarebbero occupati i talk show politici. Ci sono stati punti di vista, sì, gente certo, più competente certo di me, che potevano insomma parlare veramente con più cognizione di causa. Assolutamente, assolutamente. Grazie Luigi, grazie. A lei. 800240024, andiamo alla 7, il TG della 7, titoli. Il TAR del Lazio respinge il ricorso ed esclude la lista del PDL a Roma. Nel pomeriggio il ministro Maroni aveva detto: se i giudici dicono di no, la lista è fuori, nonostante il nostro decreto. Domani la Bonino decide se restare in corsa. Napolitano, il paese crede nella Costituzione. Terremoto nella Turchia centro-orientale, la scossa di magnitudo 6,2 ha ucciso oltre 50 persone, decine i feriti, molti sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. Prima giornata di lavoro fuori dal carcere per Renato Valanzasca, l'ex re della mala milanese, da oggi è occupato in una pelletteria e la sera deve rientrare nel carcere di Bollate. La prima volta di una donna, Catherine Bigelow, batte l'ex marito James Cameron. The Hurt Locker trionfa su Avatar nella notte degli Oscar. E Jeff Bridges e Sandra Bullock, le statuette per gli attori protagonisti. Oscar anche per due italo-americani, Mauro Fiore e Michael Giacchino. Bene, alle 20:07 il commento di Mario Segni prima è stato questo a proposito della sentenza del TAR del Lazio, che sostanzialmente annulla il decreto legge. Appare incredibile, ma è così. Segni. Da un punto di vista un po' maligno, se volete un commento non giuridico, mi viene spontaneo, quel diavolo fa le pentole ma non le coperchie. Il diavolo fa le pentole ma non le coperchie. Mario Segni, Mariotto Segni, figlio del presidente Segni, ma adesso abbiamo un altro figlio d'arte, Mauro Leone, buonasera. Buonasera, innanzitutto ciao Mario. Non c'è Mario, è stato il collegamento prima. Quanto vi conoscete? Vi seguo sempre attentamente in macchina, quindi. Grazie, grazie Leone. Quanto vi conoscete con Segni? Sì, beh, da tantissimo tempo, perché poi voglio dire, non è che sia una casa sabauda quella, la nostra. Ah, però beh, no, sicuramente. C'è un'appartenenza giuridica, a parte un'amicizia di famiglia, perché anche lui è un importante giurista. Ed ha scritto tante cose molto importanti. Lei è avvocato, docente universitario di materie penali, esatto, a Napoli. Sì, da parecchio tempo. Perché purtroppo, mica fa delinquente. A 60 anni o 30 anni di carriera. Ah, per l'età, dice lei. Certo. Ah. Sì, lei ha 62 carico anni, non l'avrei detto, ma insomma, non è importante. Insomma, lei non è mica una donna, lo può dire tranquillamente. L'età. Sì, anzi, no, da questo punto di vista. Senta, mentre Segni è stato molto cattivo nei confronti di Napolitano, dicendo che non si doveva nemmeno permettere, così lo dico io riassumendo, non doveva assolutamente firmare quel decreto che è palesemente anticostituzionale, lei invece ha avuto parole più comprensive. Devo dire che la questione adesso è un po' superata dal fatto che incredibilmente quel decreto non serve a nulla. Ma come incredibilmente, se mi consente, no. Perché? Perché voglio dire, per chi conosce come me, voglio dire, colleghi, siamo decine di migliaia, spesso la bizzarria dei collegi o dei magistrati, sì. Io faccio l'avvocato per 3 generazioni, sono 110 anni, e non è una meraviglia che spesso gli stessi magistrati o non applichino la legge come accade, o soprattutto le interpretano alla loro maniera. Quindi beh, in questo caso, mi scusi, mi sorprende affatto. No, ma non la sorprende, d'accordo, però in questo caso i giudici del TAR hanno detto che la legge regionale del Lazio è insuperabile da un decreto, perché comunque ha dei poteri particolari per quello che riguarda, insomma, il decreto non si poteva fare, certo, secondo il TAR, naturalmente, secondo l'interpretazione del TAR. D'altronde, come dire, purtroppo il diritto, e in particolare questo nel ramo pubblico, quindi amministrativo, perché il diritto elettorale non esiste, entra nel campo pubblico, è un diritto assolutamente nuovo, perché in questo paese per fortuna non si è mai quasi arrivati a questo livello, questa anzi è la prima volta, e dalla Costituente, dalla Costituzione in cui la Cassazione interpretò in maniera favorevole alla Repubblica l'annullamento di 2 milioni di voti, e l'unico esempio è questo attuale in cui i magistrati si sono, come dire, impegnati nel valutare i dati elettorali, quindi credo che ci sia anche una come dire, tra virgolette, una poca capacità ed utilità di comprendere davvero che si tratta di un fenomeno talmente importante e talmente decisivo che le piccole regole, come dire, quelle che sono dei lacciuoli che possono essere terrificanti per noi cittadini, che per in questo e caso invece? Sono terrificanti anche per chi fa questo mestiere, e io l'ho fatta la politica per tanti anni, vanno comunque giudicate in una luce molto più ampia. Che il Lo so, ho capito. Però Leone, qui c'è un problema, che un sacco di gente ci chiama dicendo io non posso partecipare a un concorso magari perché sono arrivato un minuto in ritardo, e invece poi la politica si disfa delle regole quando vuole. Va bene, 20:14, abbiamo pochi secondi. Leone, il problema è che molti cittadini sono arrabbiati perché ma guardi, hanno ragione o no? Ecco, allora, da un punto di vista umano comprendo perfettamente, perché anch'io sono cittadino, però noi abbiamo risolto un problema di fondo, che era quella delle certificazioni con l'autocertificazione, nel senso che non è che chi partecipa a un'elezione ha il posto sicuro o comunque partecipa a un concorso. È il requisito sono due cose minimo, diverse, dice lei. Esatto, è un requisito minimo per poi concorrere. Non si ha nessun tipo di diritto, anzi è un onere, perché poi costa, perché bisogna battersi e bisogna avere i concorrenti. Io ho detto in quell'intervista... Invece il diritto elettorale? Esatto, che basterebbe davvero un'autocertificazione da parte dei componenti delle liste per superare questi problemi, come si fa per i cittadini normali, perché è veramente assurdo dare importanza a qualche centinaio di firma quando si parla di amministrare una regione che... Però sarebbe una babele, perché si potrebbero presentare centinaia di liste ogni volta. Ma questo è vero, non è un male. Il problema della non presentazione è solo della, come dire, della copia del marchio del partito, ma la Costituzione non vieta nelle leggi regionali che siano decine e decine le liste. Quello che non è possibile è cosiddette liste civetta, per cui non so, facciamo finta che parliamo della Prima Repubblica, sì, ho capito, la Democrazia Cristiana non poteva avere un altro partito. Il rischio è avere una scheda con 200 liste che si presentano, se non c'è io farei un filtro con i soldi, l'unico filtro possibile sono i soldi. Ma questo non si può evitare, perché il diritto del cittadino delle firme ad essere rappresentato, lei ricorda il Partito dei Pensionati, che ancora attualmente è presente, risero in tanti, però ho ottenuto sempre molti voti. Quindi da questo punto di vista bisogna stare molto attenti, non è il numero degli elettori che è importante, ma è il programma che si presenta. E quindi il problema, ripeto, che il TAR non ha valutato, è che c'è il cittadino che ha il diritto di sapere quali programmi, quali tipi di impostazioni ci siano tra vari candidati, tra varie liste. No, ma questo ho capito, però il TAR doveva prendere in considerazione, non questo, il TAR doveva prendere in considerazione il momento della presentazione, se c'erano le firme giuste o no. La ringrazio, abbiamo il traffico. Grazie traffico, a lei, traffico. Sentite, buon lavoro. Eccoci qui di nuovo in diretta alla Zanzara, 20:18, 800 24 00 24 per i vostri interventi. Questa sera, come da 2-3 giorni a questa parte, tutti incentrati su questa vicenda incredibile delle liste. C'è un pasticcio nel Lazio, perché la lista è stata ripresentata oggi all'ufficio elettorale del Tribunale e potrebbe essere riammessa per questa strada, ma secondo i termini decisi dal decreto legge, il quale a sua volta è stato dichiarato inapplicabile dal TAR del Lazio. Ditemi voi se è possibile mettersi in un pasticcio di questo tipo. Ed è un pasticcio che potrebbe continuare anche dopo, perché potrebbe intervenire un annullamento, il decreto legge che non passa in Parlamento e dunque annulla tutto, una cosa ridicola. Ernesto da Roma, buonasera. No? Ernesto, dica. E niente, io ho chiamato prima della breaking news ormai, però senta, io volevo dire, lo dico stesso. Lo dica, che c'entra la breaking news? Sono un simpatizzante di Pietro, dell'Italia dei Valori. Lei, sì. E sono molto confuso, perplesso, perché questa storia è iniziata con molto fair play, dicendo a noi non piacciono le del tavolino, e mi stava benissimo quella posizione. Sì. Poi qualcuno ha perso la brocca, anzi, due o tre, tra lui e De Magistris, è venuto fuori il discorso dell'impeachment, del golf, di organizzare la piazza. Io mi sento molto imbarazzato. Mi sembra che da un'ottima partenza stiamo arrivando a fare una grossa figura di melma con tutti quanti, che ci costerà un sacco di voti. A chi? All'Italia dei Valori? All'Italia dei Valori? Non, sì. non credo. Queste posizioni di solito... Perché c'è incoerenza. Ah, lei dice tra la prima posizione di Di Pietro. Però è intervenuta una cosa tra la prima posizione di Di Pietro e la seconda, diciamo. La prima moderata e la seconda, diciamo, più estremista. È intervenuto il decreto legge del governo. Di Pietro gioca tutto su questo, certo. L'incoerenza c'è, non c'è dubbio. La ringrazio. Poi anche adesso con la breaking news, sì. Scusi, Cruciani. Dica. Questo decreto, più che un decreto, è un decretino, perché non serve a niente. Appunto, cioè, è venuto meno l'appoggio dell'ok del TAR, cade il decreto, si svuota. No, veramente il decreto doveva servire per coprire un eventuale no del TAR, questo che tutti quanti avevamo capito. In attesa del TAR, intanto c'è il decreto. Questo, ma lei, come pure i notiziari, state spiegando che non è così. No, non è così, secondo che... quello che ha deciso il TAR. Il TAR ha detto che il decreto legge non può essere applicato. E però, nello stesso tempo, la lista del PDL oggi è stata ripresentata secondo quello che prevede il decreto. Dunque, una cosa... ma assurda. È tutto così strano, guardi. No, è strano, strano. È l'Italia della burocrazia, della regola, dei cavilli. Noi siamo completa come Italia dei Valori, perché siamo partiti in un modo, stiamo arrivando in un altro, adesso questo TAR che boccia addirittura il decreto, insomma, è veramente... Va bene, grazie. 2020 800 24 0024, missioni impossibili. Riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo trovato Michele Rizzi, partito di Alternativa Comunista, un trotskista in Puglia che sostiene che Vendola, al suo confronto naturalmente, è un borghese. Io sono un precario di un call center, ma io mi presento per dare la possibilità di rappresentare delle lotte concrete di operai che hanno occupato i tetti, una lista più forte che quella di Alternativa Comunista. Vendola fa parte di un polo che è un polo borghese, non siamo puri, noi siamo anticapitalisti. E poi Gianluca Panto, Partito Nazional Veneto, in Veneto, il quale naturalmente ci espone una piccola parte del suo programma in un misto tra italiano e veneto. Veneti, stavolta non te farve fregare, votte Panto, votte Partito Nazional Veneto. Noi ci crediamo veramente, è un percorso. E poi abbiamo avuto Marzia Marzoli, Rete dei Cittadini nel Lazio, che a un certo punto ha sperato in che cosa? Ha sperato sarebbe stata lei di essere l'unica sfidante di Emma Bonino. Alla riscossa, cittadini alla riscossa, è stata veramente una soddisfazione. Noi che siamo stati più precisi, non siamo mai stati menzionati in nessuna testata, ma devo dire che quei due giorni in cui eravamo rimaste soltanto presidenti, per noi è stato importante, ripeto, farci conoscere, perché è la prima volta che i cittadini possono scegliere al di là dei partiti. Noi siamo orgogliosi di rappresentare tutti quei cittadini che non si sentono più rappresentati dai partiti. Bene, 20 e 22 800 24 0024, abbiamo ascoltatori, fra poco l'ospite sulle missioni impossibili, che è un ospite che riguarda il Piemonte. Nicola da Bari, buonasera. Sì, buonasera, dica. Dottor Cruciani, niente, io vorrei fare soltanto una serie di considerazioni. La prima, dopo la decisione del TAR, ancora una volta si evince come l'assetto, diciamo, del nostro Stato, dell'Italia costituzionale, pensato dai nostri padri fondatori, anche questa volta si è rivelato corretto, cioè quel sistema di pesi e contrappesi. E quali sarebbero in questo caso i pesi e contrappesi? Beh, un TAR, una decisione del TAR, quindi un'iniziativa appunto del potere diciamo giudiziario, anche se amministrativo, che non accetta quello che era un sopruso fatto dal potere politico. E quindi questo ancora una volta è sintomo di una democrazia che ha una sua maturità interna. Secondo, un'altra considerazione che vorrei fare è adesso può darsi che sia giusto ripensare anche ad un sistema, una una regolamentazione dell'accesso alle tornate amministrative che possa permettere a tutti di presentarsi. Perché un conto è... Che significa che possono permettere a tutti di presentarsi? Cioè, nel senso che non ci sia la necessità di raccogliere le liste. No, Nicola, io penso che un filtro ci vuole. Secondo me il filtro può essere... lasciamo perdere questa storia delle firme che è finta. L'unico filtro possibile può essere il denaro. Cioè, si deve essere capaci di raccogliere finanziamenti eccetera per presentarsi, altrimenti insomma, la raccolta di denaro spesso è indice di consenso, no? Perché uno dà fiducia ad una lista versando del denaro, se non si riesce a raccogliere tot non ci si può presentare, potrebbe essere una soluzione. Grazie Renzo Rabellini, buonasera. Rabellino. Sono singolo. Lei è singolo, Renzo Rabellino, però non è singolo perché rappresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 liste. Sì, 10 liste. In Piemonte. Missione impossibile, sì. Perché lei quanto arriverà? Terzo, quarto? Quanti sono i candidati in Piemonte? Quattro candidati, noi puntiamo ad essere terzi. Puntare a essere terzi dopo Bresso o Cota, voi puntate il quarto, chi è? Secondo lei quello che arriva quarto, chi è? È quello che ha una lista sola, che inevitabilmente arriva quarto. E chi è? Chi è? Come si chiama? Non... Ma come, non lo sa? Non ah, sa buono, buono, buono, buono. Buono, e di, ecco, di che partito è? Dei Grillini. Ah, dei Grillini. E perché i Grillini dovrebbero prendere meno voti di lei, scusi? Perché è inevitabile, con una lista sola non si può prendere, non si può che prendere quei pochi voti. Lei però pare sia un mezzo furbacchione, Rabellino, così dicono i suoi. Male, i suoi... Vero. Qualcuno ha parlato di lei come una sorta di incrocio tra Totò Falsario e i tarocchi, tipo i jeans Levi's, le scarpe Nike, Lewis, scritto Lewis. Vabbè, quelli sono che fanno di moda, no, in Italia. Eh? È di moda in Italia, no? Cosa, il tarocco? No, mi pare, no? Senta, questo perché? Perché, insomma, lei per esempio... Ma no, vabbè, perché non sanno che cosa dire. Il problema è che, siccome dà fastidio che vi sia una coalizione alternativa al sistema, consistente, che gruppi politici diversi fra di loro, per ideologia, sì, per cultura, molto per diversi, storia, molto diversi insieme, molto diversi, ma comunque consistenti, reali, perché quando stiamo parlando di Fiamma Tricolore, di Forza Nuova, dell'Udeur di Mastella... della Democrazia Cristiana. Cioè Mastella è alleato con lei? Parlando. E Mastella è alleato, certo, con lei? Ma non credo proprio, certo. Mastella è alleato in tutte le regioni col PDL, di che stiamo parlando? Vede che allora non ha visto bene i simboli, certo. No, i simboli l'ho visti. Abbiamo la delega, Mastella ci ha dato la delega per presentare l'Udeur in Piemonte e noi abbiamo presentato l'Udeur in Piemonte. Ma guardi, l'Udeur in Piemonte appoggia... Guardi, verrà anche Mastella in campagna elettorale. No, quando la invitiamo quando verrà a Torino. Certo, dunque Mastella non appoggia l'ultima settimana. Non appoggia Cota, ma appoggia voi. No, perché Cota non ha voluto che l'appoggiasse. Ah, Cota non ha voluto Mastella. Certo. No, vabbè, ma è un'informazione che lei mi sta dando, Rabellino. Certo. Però lei sa bene che c'è stato un problema con la lista Cota. Voi avete presentato una lista Cota, poi come è stata trasformata da questa lista Cota? Lista Cota con scritto PDL sotto. Lista Cota. Il patto dei liberali è diventato liberali e basta. E Nadia Cota pure è stato messo il nome, Nadia. Certo. Beh, all'inizio era lista Cota PDL, insomma, volevate un po', no? Patto dei liberali, certo. Ma guardi, noi il problema nostro è che noi utilizziamo tutti i mezzi leciti. Noi abbiamo oggi un sistema politico estremamente scorretto, perché comunque l'informazione, come lei ben sa, è molto censura tutto quello che non fa parte dei due schieramenti, cioè sembra che in Italia ci siano solo due schieramenti. In realtà non è così, il 40% degli italiani non va più a votare. Per questo c'è bisogno di presentare un simbolo scritto lista Cota PDL. C'è bisogno di fare tutto quello che è necessario per prendere dei voti e tutto quello che è necessario legalmente, evidentemente, per prendere dei voti. E dunque perché anche presentare dei simboli. Dobbiamo superare lo sbarramento del 5%, certo. Noi sicuramente supereremo lo sbarramento del 5%. E dunque presentare un simbolo. Chiederemo il 6%. Cioè, presentare un simbolo in cui c'è scritto Cota per attrarre i voti di chi magari si sbaglia e mette Cota lì perché pensa di votare Cota. Tra l'altro, lei tenga presente che quella lista lì è una lista che è apparentata a noi, non fa parte delle liste vicine al sottoscritto. E noi quando ce l'hanno proposto l'abbiamo apparentato ben volentieri, perché abbiamo apparentato tutto quello che si è offerto, ripeto, da Forza Nuova a Mastella. Senta, ma lei le sa tutte le liste? Te l'appoggiano? Partiamo, partiamo. Uno. Da dove vuol partire? Da no tavolo nucleare. No tavolo nucleare. No tavolo nucleare. Poi? La Lega Padana, che è quella vicina a noi. Lega Padana, sì, il anche qui. Il movimento No Euro, lista del Grilli, che sì, è quella presente già alle elezioni politiche, sì, per il movimento, sì, storico. E tre. Nostro. E tre. Poi? Forza Nuova. Quattro. Fiamma Tricolore Destra Cinque. Sociale. Cinque. Il centro, che, della quale fa parte l'Udeuro di Mastella, sì, Lega Italia di Taormina e la Democrazia Cristiana, sì, e Nuova Era Socialista. Poi abbiamo la lista giovani under 30. Dove sta questa? La lista fatta esclusivamente di giovani, tra l'altro la vera novità della, della, dello poi? Scenario politico poi? Elettorale italiano, piemontese. Ecco, poi abbiamo la lista Forza Toro, che è una lista che ci appoggia già da circa 8 anni. Beh, sì, certo, tra Forza Toro e non nucleare no TAV c'è un grande amalgama, diciamo, no? Si direbbe in termine calcistico. Insomma, no, ma lei l'ha detto, noi abbiamo preso una tutti... coalizione eterogenea, la nostra è una coalizione eterogenea. Che si pone come obiettivo quello di sconfiggere il sistema, cioè tutti i gruppi che non si riconoscono nel sistema o che non sono stati apparentati per un motivo o per l'altro, si sono ritrovati sotto questa. Senta Rebellino, le ultime domande dopo la borsa, le ultime domande dopo la borsa, 20:30, 800 24 00 24, Renzo Rebellino, Ravellino, i candidati impossibili, Regione Piemonte. Siamo qui 20:35 con la Zanzara, 800 24 00 24, con Renzo Rabellino, che è candidato per Terzo Polo, Alternativa per il Piemonte, insieme a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Rabellino alla fine, 10? 10 liste, 10 liste, per la presidenza della Regione Piemonte. Senta Rabellino, però... diciamo, prima del fatto che lei ogni tanto ha utilizzato dei metodi un po' particolari per farsi votare, leciti, o per leciti, vabbè, certo, leciti, anche se poi ci sono le correzioni, eccetera. Anche perché ci sono, certo, difatti le correzioni noi le abbiamo assolutamente accolte. Senta, oltre alla lista cota, che ci hanno detto le commissioni elettorali, oltre alla lista cota, sono fatte da giudici. Oltre alla lista cota, ci sono dei precedenti. Nel 2001 lei ha candidato a sindaco un tale Gianfranco Rosso, che è omonimo di Roberto, che era il candidato ufficiale alla Casa della Libertà. Poi ha perso contro Chiamparino. Benissimo. Nel 2008, almeno da quello che si legge, lei ha candidato alle politiche Giuseppe Grillo, detto Beppe. Noi ce l'abbiamo ancora in lista adesso, uno dei nostri militanti, uno dei nostri... Ho capito, ma è chiaro che è un trucco, Rebellino, non mi dica che non è un trucco, Rebellino. Ma guardi, Beppe Grillo, il comico, non è candidato, per cui non ci sono problemi. No, ho capito, però mettere Giuseppe Grillo, detto Beppe, in lista, insomma, voi lo fate per un motivo o no? Sì, guardi che c'è un trucco a monte di tutto questo, e che qual è molto più meno serio. È quello che noi abbiamo una classe politica che prende per il culo gli italiani, scusi, prende per i fondelli gli italiani e vabbè, ma questo che c'entra con Beppe Grillo? Sistematicamente, per cui il problema, vede, noi ho capito, ma qui è un altro discorso. Se consente, noi lo facciamo, punto. No, ma io non ho detto che non lo consente, non mica sto dicendo che lei è un bandito. Molto, in modo molto schietto, cioè noi adottiamo tutti i metodi leciti per prendere voti, per togliere le seggiole ai signori del sistema. E dunque anche mettere Giuseppe Grillo, detto Beppe, è un trucco lecito, ma è un trucco. Ma può essere un trucco. Guardi che Rosso, che lei ha citato, è un giornalista, sì, è un giornalista, persona serissima, che si è fatta la sua campagna elettorale in modo molto serio, per cui con delle argomentazioni estremamente importanti per la città di Torino. Ho capito. E non solo per la città. Senta, di Torino. Il secondo in lista, però, nella famosa lista di Beppe Grillo, era anche uno che si chiamava Pericle Berlusconi. No, Pericle Berlusconi, che è ancora oggi il segretario regionale del Partito Pensionati Invalidi, che guarda caso a questa tornata non corre con noi, ed è peraltro anche in lista lui. Non corre con noi, ma corre col centro-sinistra, apparentato al centro-sinistra. Pericle Berlusconi, comunque era. Pericle Berlusconi, anche qui ogni segretario regionale del Partito Pensionati Invalidi, che faceva parte all'epoca della coalizione. E ogni riferimento è puramente casuale, anche qui, o no? No, ma guardi, non è un problema se uno volesse trovare un Berlusconi. No, dice si trovano, dice lei. In questo caso non c'entra niente Berlusconi, no? Si poteva trovare tranquillamente. No, lì non c'entra niente, lì proprio è casuale. È casuale, perché comunque questa persona doveva comunque andare in lista. Senta, pare che siano furibondi dei tifosi del Torino, invece, no? Ma una parte della curva chiaramente non condivide l'apparentamento con Forza Nuova e la Fiamma Tricolore. però coloro, quelli che hanno fatto la lista del Toro, che l'hanno già fatta l'anno scorso alle provinciali, sì, che l'hanno fatta alle comunali scorse, addirittura c'erano due liste. Ma che vuol dire una lista Forza Toro? Che programma può avere Forza Toro? Alle scorse comunali, sì, c'è un problema sullo stadio del Filadelfia. E che c'è bisogno di presentare una lista Forza Toro? Il recupero dello stadio da parte delle istituzioni. E dunque uno presenta una lista Forza Toro. Ma poi ribadisco, alle scorse comunali di liste legate alla tifoseria del Toro erano due. Mica è detto che siano apparentata da un'altra parte. Lei lo dice come se fosse una cosa positiva. Per me è una follia presentare una lista Forza Toro, Forza Lazio, Forza Juve, uguale. Cioè, detto questo. Ma guardi che a Roma forse non si è mai reso conto, ma sono 10 anni che tutte le elezioni. Lo so benissimo, per carità. Per cui non è assolutamente strano. Rabellino. Quelle liste lì si pescano in un elettorato che se non ci fosse quella lista molto probabilmente non andrebbe a votare. Dunque un bene? Direi proprio di sì. Qualsiasi cosa, anche perché, scusi, vorrei ricordare che l'anno scorso alle elezioni provinciali la lista Forza Toro ha fatto lo 0,53%. Beh certo, appunto perché si chiama... Vuol dire che c'è una serie di tifosi che ha gradito... ha gradito la presenza di questa lista. Vabbè, ma abbiamo evidentemente idee diverse su quello che è la democrazia. Insomma. Ma se Dio vuole, cioè, meno male. Grazie, meno Rabellino, male. Buona serata. Grazie. 2040 800 24 00 24. Mauro, provincia di Biella, proprio dal Piemonte. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Il mio intervento è legato a questo. Notavo così una poca coerenza che c'è nel PDL tra ciò che dicono e ciò che fanno. Io sono un elettore di centro. Lei è in viva voce, Mauro? Ho l'auricolare. Magari si avvicina un po' di più. Sì. Sentiamo meglio, grazie. Pronto? Staccato l'auricolare, momenti di attesa. Eccoci qui con Mauro, provincia di Biella. Le chiedo scusa, così è meglio? Sì, è meglio, dica. Ok. No, dicevo, questa poca coerenza che noto in un partito dove si mette come ministro un personaggio come Brunetta, che sta facendo un lavoro che oltretutto in alcune parti condivido anche, e dove però richiede la correttezza da parte di un impiegato statale, e poi di fronte ad un errore grossolano, invece di ammettere un proprio errore, presentarsi eventualmente... chiedere al capo dello Stato eventualmente di poter essere riammesso per una questione di democrazia, si fa una legge che bypassa un errore. Lo trovo poco coerente, insomma, con quello che viene fatto. No, cosa c'entra Brunetta? Non l'ho capito. Lei dice Brunetta... Brunetta, le dico, da parte di un partito che presenta un personaggio come il ministro Brunetta, che fa della correttezza nei confronti del lavoro da parte dei lavoratori statali il punto di forza, no? Cioè la battaglia fatta per evitare che si facessero le furberie di rimanere a casa in mutua quando non era... La base di quello è la correttezza, no? Poi di fronte ad un errore, che ad una cosa fatta male, si fa un decreto per sanarlo, ho capito. Un decreto lo trovo poco coerente. Grazie, ecco. Grazie. Franco da Pescara, buonasera Franco. Buonasera, salve. Dica. Grazie per avermi richiamato. Grazie a lei, dica pure. Complimenti per la trasmissione. Niente, volevo spiegare a tutti questi soloni che parlano di correttezza, di concretezza. Bisogna spiegare come sono fatte le liste elettorali. La quasi totalità, per non dire la totalità, delle liste elettorali è riempita di persone che non sanno nemmeno di starci, riempite di persone che i cui nomi sono stati presi 4, 5, 6 elezioni fa e che ci sono ancora. È riempita di persone che sono morte. Quindi di che correttezza, che coerenza, di cosa parliamo? No, ma lei ha ragione, le liste di solito vengono fatte così. Ecco, quindi allora... Il problema si è creato perché, non so se avete fatto caso, che qualche tempo fa i radicali che volevano presentare le liste in tutte le regioni per questa tornata elettorale, avevano avuto la candidatura della Bonino sponsorizzata un po' da tutte le sinistre, hanno pensato di rompere un po' il ghiaccio ovunque, di presentarsi in tutte le regioni. e avevano trovato difficoltà nel raccogliere le firme e nella certificazione delle firme, sì, esatto, e avevano fatto più volte richiesto che venisse modificato la regolamentazione, comunque la legge, tant'è vero che c'era stato il famoso sciopero della fame e della sede della Bonino. Adesso cos'è successo? Siccome non sono stati accontentati, loro di ripicca, sapendo come erano state compilate le liste elettorali, hanno messo le postazioni davanti alle liste elettorali delle circoscrizioni più importanti, fra cui quelle di Roma e di Milano, e hanno riscontrato a Milano, che hanno avendo preso in mano le liste, che c'erano delle imperfezioni così come stavano in tutte le liste, e a Roma che a mezzogiorno ho capito, Franco, lei ci sta ricostruendo quello che è avvenuto. Ho capito, Franco, lei ci sta ricostruendo quello che è avvenuto, dicendo che sono stati radicali a fare ricorsi, dunque a innescare tutto quello che è successo. Beh sì, è così, insomma, l'abbiamo visto, commentato e certificato. Grazie. Antonio da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera. Io, essendo arrivato per ultimo, dunque, il buon Ernesto, l'ascoltatore di Roma, mi ha preceduto perché anch'io volevo stigmatizzare, non mi piace vincere a tavolino. E poi il capo di questa accolita di farneticanti estremisti ha cambiato strada perché ormai gli conviene. Invece, volevo ricordare a tutti che esiste una famosa piccolissima poesia di Trilussa sulla vanagloria. E qual è? Che è quella della lumaca, che la lumachella della vanagloria passò sbavando sopra un obelisco, guardò la bava e disse: già capisco che sto lasciando un segno nella storia. Mi pare che... A chi può essere applicata? Ecco, a chi può essere applicata? A questi, ad alcuni, una parte di questi PDL che sono veramente dei pressappochisti, artigianali, proprio una cosa pazzesca. Cioè, ma come si affida a uno squallido imitatore di sordi un compito così importante come quello di... Lei dice milioni, dice. Sì, sì, milioni, sì. Cioè, un povero Dio che non riesce neanche a parlare, proprio il capro espiatorio di un mondo di gente che pensa di aver vinto, di aver fatto. Lei sta parlando con un elettore di centrodestra. No, ma ho capito, Antonio. Va bene, grazie. Lei è stato molto chiaro, diciamo, con parole molto dure nei confronti di chi ha preso. Chiaro, Sì, anche perché ormai siamo diventati, mi è parso di sentire in giro di tutti gli interventi, eravamo un popolo di allenatori di calcio. E ormai siamo diventati un popolo di costituzionalisti. Ah, su questo non c'è dubbio. Grazie, grazie, traffico. La ringrazio molto, arrivederci. Siamo qui 2048 800 2400 24 per chiamarci, ci viene mal di testa tra TAR, consigli di Stato, possibili ricorsi, eccetera, eccetera. E ci ha chiamato prima il dottor Silvestro Russo, che è magistrato appunto ormai al famoso TAR del Lazio. Buonasera, dottor Russo. Buonasera, caro dottor. Buonasera. Allora, non è lei che, specifichiamolo subito, non è lei che ha preso una decisione, no, altrimenti non potrebbe parlare, mi pare evidente. Però conosce i suoi colleghi perché lavora nella stessa sezione, o sbaglio? Sì, infatti è proprio così. E come vede, ecco, noi poveri piccoli magistrati del TAR, come sia qui a Milano che a Milano, siamo riusciti a venire a capo di, obiettivamente, di situazioni alquanto intricate e probabilmente anche senza la necessità del decreto legge. Ecco, mi spieghi questa cosa, perché da quello che ho capito io, i suoi colleghi hanno deciso che in sostanza la competenza è regionale, dunque questo decreto manco si poteva fare, o sbaglio? No, non è precisamente così, è che l'articolo 122 della Costituzione dà alle regioni dal 1999 in poi la possibilità di farsi le proprie leggi regionali. Credo a occhio che tutte le regioni abbiano una propria autonoma legge regionale nei limiti e nel rispetto dei principi generali dettati dalla legislazione statale, allora, che è quella sia del 1968 che quella del 1995. Ma al di là adesso dei riferimenti, perché sennò ci complichiamo la vita, si poteva fare questo decreto o no? Non si sente. La linea va e viene. Gaetano dai Sernia, buonasera. Buonasera, Cruciani. Senta, io vorrei chiudere con un po' di fantasia. Sì, chiudiamo con fantasia perché stasera ci siamo appesi alla legge, ai decreti, ai passaggi, al diritto. Io vorrei vivere... Non la farò mai più. Mai più una trasmissione così. Mai più, mai più. In un'altra nazione, forse in un'altra epoca, avrei auspicato che succedesse dopo il pasticcio delle liste elettorali del PDL che ci fosse stato un grande fair play da parte del centro-sinistra dicendo: guardate, siamo noi che vi riammettiamo alla gara, alla disputa, facendo, che so, un percorso ideale. Ho capito, Gaetano, ma qui il problema è che se ci sono dei ricorsi, poi questi ricorsi bisogna seguire. Non è che le leggi sono fatte così, per poi c'è l'accordo politico che risolve tutto. Va bene, la politica è importante, per carità, però una volta che ci sono dei termini e, diciamo, ci sono dei dubbi se questi termini sono stati rispettati o no, poi a un certo punto il tribunale decide se ammettere la lista, ci sono i possibili ricorsi. Non è che si può bloccare tutto questo con dei provvedimenti di tipo legislativo, è impossibile. Cioè, è questo il punto, e vorrei chiarire questo anche col dottor Russo, che è di nuovo in collegamento con noi. Cioè, può una legge a un certo punto inserirsi in un procedimento di questo tipo? Secondo me no. Niente, no, no, non ce l'abbiamo, sì, più. Pronto, eccomi. Sì, Russo, dica. Eccomi. No, guardi, tralascio il profilo politico che non mi compete. Dal punto di vista dell'ammissibilità del decreto legge, sì, è possibile per tutte quelle situazioni e casi su cui la legislazione regionale non fosse già intervenuta. Forse questo è uno di quei casi per la Regione Lazio per i quali probabilmente il decreto legge sarebbe stato superfluo. Si potrebbe forse obiettare. Cioè, scusi, quando lasciamo perdere però tutti i passaggi, perché sennò io divento matto, dottor Russo. No, ecco, la cosa che si vuole capire è questa: il decreto legge si poteva fare oppure no? Perché qui si va incontro a un'altra obiezione, cioè che nemmeno lo potevano fare sin dall'inizio, perché pare che la competenza fosse regionale, o no? No, la questione è un poco più semplice e complessa allo stesso tempo. Appunto. Cioè, per alcune parti della legge, delle norme elettorali è di competenza solo delle regioni. Per appunto, altre questioni più procedimentali, sì, cioè le competenze degli uffici elettorali, come si devono comportare, la loro composizione, eccetera, questa invece è di competenza statale. Beh, si poteva intervenire allora come si è intervenuti oppure no, secondo lei? No, è d'accordo con i suoi colleghi? Forse questo è uno di quei casi in cui il decreto legge non è operante perché c'è già una norma completa della regione. Un'obiezione però si può fare, e qual è? E probabilmente la faranno valere in Consiglio di Stato, che spetta allo Stato assicurare su tutto il territorio nazionale una uniformità di atteggiamenti e di servizi a favore dei cittadini e quindi anche dei presentatori delle liste, che sia perfettamente omogenea e uguale in tutte le regioni. Vabbè, vedremo. Grazie Russo. Angelo da Roma, buonasera. Grazie a lei. Buonasera. Ma guardi, io ho sentito un po' di cose a proposito di questa vicenda. Sì, io non ne posso più, da domani non voglio più parlare di codici, codicilli, ricorsi, TAR, consigli di Stato, basta. Guardi, io sono, diciamo, tra virgolette, impegnato in questa competizione, non come candidato, per cui si lasci, immagini che cosa ho sentito io in questi giorni. Comunque, secondo me, la questione in causa e tutto questo non è sicuramente un problema di democrazia, non sono, queste sono tutte questioni, come si suol dire, di lana caprina. Qui il problema è che ci sono i maggiorenti della ex Forza Italia e della ex Alleanza Nazionale, gente, alcuni dei quali sono da 10 e più anni in regione, sì, che restano fuori. E chiaramente questi stanno difendendo per forza di cose i loro leciti diritti a stare lì dentro. Ma leciti, immagino, secondo chi leciti, mi scusi? Beh, leciti nel fatto che loro si sono presentati, sono candidati, hanno speso dei soldi. Ho capito, hanno sbagliato. No, ma infatti, guardi, io sto dicendo... Legga come preferisce meglio i termini leciti. No, ho capito, loro leciti per se stessi, lei dice. Certo, loro... è chiaro, è logico che leciti per loro stessi. Il discorso è che io sono convinto, anche se non ero lì, per cui è una convinzione tutta personale, che queste persone hanno massacrato il presidente Berlusconi e quanti al loro tiro per dirgli: fate qualcosa, noi vi mettiamo in crisi il partito, noi creeremo un casino, qui non si potrà governare più. Cioè, li avranno fatto la pressione massima che potevano fare, certo, e quindi di conseguenza è stato fatto questo decreto. Ora poi possiamo raccontarci tutte le barzellette che vogliamo, del resto ormai... Però Angelo, mi scusi, adesso è impensabile che il decreto sia stato fatto solo perché i potenti... Perché l'hanno fatto allora? Ma no, l'hanno perché fatto perché comunque è un pericolo anche per la vittoria della Polverini, no? Perché non credo, perché comunque sia... No, ma ci sono dei calcoli, Angelo, che... Sì, ma le azioni personali, io sono convinto che se a persone che hanno la capacità di raccogliere molto consenso, sì, vengono poi garantite o venissero in qualche modo garantite la possibilità, cioè gli assessorati, cose del genere, quelli per quale motivo non mica dovrebbero... ci sono per tutti gli assessorati, no, assolutamente no, ma ci sono tante cose in regione, no, ho capito, ma lei ha ragione, lei dice la campagna elettorale la fanno lo stesso, la fanno, ma lo certo, stesso è chiaro che la fanno lo stesso, e i voti dove vanno a finire? Come? E i voti dove vanno a finire? Vabbè, i voti verrebbero messi sui candidati che stanno all'interno della lista della Polverini, dell'UDC, ci sono altre liste del MIS. No, ma certo. Cioè, va bene, non vedo il problema. No, ma il problema c'è comunque, perché una percentuale è stato calcolato di voto, sicuramente verrà disperso, che una serie di persone non vedono la lista del PDL a Roma e chiaramente non la votano. Grazie Angelo, ci sentiamo domani alle 18:30. La Zanzara.